strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura ci occupiamo del tavolo sull'automotive, la sua istituzione era stata decisa durante il tavolo Mise di ottobre e nei giorni scorsi il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha presieduto la prima riunione del gruppo di lavoro dedicato alle misure a sostegno dell'automotive. Nelle intenzioni del governo, associazioni, aziende, centri di ricerca e rappresentanti delle regioni dovranno lavorare insieme per accompagnare il processo di transizione energetica di un settore ritenuto strategico, con particolare attenzione alle misure e alle risorse da destinare a supporto della domanda di mobilità. Un tema questo che affronteremo tra l'altro sempre nella prima parte della nostra trasmissione tra poco con il nostro ospite. Dal 2020 le auto elettriche, ibride e i monopattini elettrici entrano a far parte del paniere Istat, beni che diventano dunque protagonisti dei bilanci familiari degli italiani, come confermato anche dai dati ACI. Nel 2019 le immatricolazioni delle ibride sono aumentate del 33% rispetto all'anno precedente e le elettriche, sebbene ancora di nicchia, addirittura del 115%, conquistandosi però insieme solo il 5% del mercato italiano. Veicoli noleggiati a lungo termine nei primi 9 mesi del 2019 hanno superato la soglia del milione, confermando il successo della formula. Lo ha reso noto ANIASA, l'associazione di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Tra le auto a noleggio, utilizzate sia da grandi aziende che da liberi professionisti e privati, primeggiano le city car e le utilitarie, con Fiat Panda in vetta. Scende la quota del diesel a vantaggio soprattutto del benzina. Nel 2019 ha aumentato il traffico nelle principali città del mondo, lo ha confermato recentemente il TomTom Traffic Index, il report annuale interattivo dell'azienda olandese. E di certo l'Italia non ha fatto eccezione, con Roma ancora una volta capitale del traffico. Una tendenza testimoniata anche dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha analizzato i dati del 2018. Ascoltiamo la scheda. Nel 2018 Roma è stata l'area urbana più congestionata d'Europa, con i cittadini che hanno speso in media 254 ore l'anno nel traffico, il 16% in più rispetto al 2017. È il dato che emerge dal report Trasporti e Ambiente 2019 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. La nostra capitale fa peggio anche di Parigi e Londra, ma non è la sola città italiana invischiata nel traffico. Tra le 15 aree urbane dell'Unione Europea più congestionate, infatti, Milano occupa il 5° posto con 226 ore, Firenze il 7° 195 ore, Napoli il 10° 186 ore, Torino il 12° 167 ore. In generale, gli italiani sono terzi in Europa per quantità di tempo passato tra ingorghi e mobilità rallentata, con un peggioramento costante registrato dal 2015 a oggi. Un problema anche e soprattutto ambientale. L'Agenzia Europea segnala che le emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture sono aumentate per il secondo anno consecutivo, raggiungendo 120,4 grammi di CO2 per chilometro. Insomma, tanti gli argomenti che abbiamo affrontato e che affronteremo questa sera, e parte di questi argomenti li affrontiamo in compagnia del nostro primo ospite, Paolo Scudieri, il presidente di ANFIA. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Fra un po' parleremo anche del tavolo sull'automotive che abbiamo anticipato prima nel blocco delle news, però prima vorremmo parlare di un altro evento che ha caratterizzato questa settimana, e ovviamente lo conoscono tutti, Brexit, questa separazione che però ha delle conseguenze importanti per il settore specifico dell'automotive. Quali sono, presidente Scudieri? Beh, in ambito automotive questa decisione da parte degli inglesi di uscire dall'Europa pone sicuramente degli interrogativi e a mio parere delle opportunità. Gli interrogativi sono quelle delle relazioni commerciali. Ricordiamo che il Regno Unito per noi è sicuramente importante ed è il terzo paese con cui scambiamo merci, con una bilancia commerciale attiva per 1.380 milioni su un rapporto che vale 1.740 milioni. Il discorso è il saldo positivo particolarmente importante, quindi speriamo che tutto quanto si mantenga inalterato in termini di rapporti, di limitazioni, di possibili barriere o dazi che evidentemente potrebbero poi inficiare questo rapporto virtuoso e positivo. Lo dicevamo prima, per quanto riguarda l'Italia ovviamente c'è un impatto importante proprio per il mondo della componentistica, lo ricordiamo, l'Italia è leader in Europa, in parte anche nel mondo per quanto riguarda questo settore, ovviamente come ricordava anche lei questo è uno degli aspetti da evidenziare. Veniamo invece proprio al mercato italiano, sono usciti qualche giorno fa i dati del mese di gennaio, dati purtroppo non particolarmente felici, c'è stato un calo del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono state immatricolate circa 155.000 vetture rispetto alle 165.000 del 2019, c'è stato comunque, c'è qualche correttivo da sottolineare, un giorno in meno di lavoro che pesa per il 4,5% circa, insomma non è un dato assolutamente negativo, però è una tendenza che sicuramente fa riflettere. Ma guardi, io sarei molto cauto sulla declinazione del primo mese quale fattore strategico per l'anno. Io credo che quanto abbiamo registrato, peraltro in evoluzione secondo quello che le dice, cioè l'attualizzazione secondo i giorni lavorati, ma anche che ha una doppia visualizzazione dei marchi italiani che hanno sostanzialmente mantenuto le posizioni. Tuttavia su questo dato sicuramente insiste anche una sorta di incertezza che in qualche modo in questo momento segna il mondo dell'automotive in Italia come in Europa. Certo, tutto se il comparto è in un ambito di transizione, ragione per cui come abbiamo detto già da qualche tempo stiamo affermando abbiamo bisogno di avere chiarezza. Oggi questo impasse piuttosto che questo interrogativo continuo da parte del consumatore di come comportarsi, cosa comprare, quale vettura, quale motorizzazione, quella penalizzazione veramente assurda verso i diesel eccetera eccetera, sembra che possa essere dopo tanto lavoro possa andare come dire a rasserenare gli animi e avere un'offerta più poliedrica con delle stratificazioni maggiori rispetto all'utilizzo del mezzo, ma che comunque va a orientarsi verso una normalizzazione di mercato e di scelte tecnologiche. Ecco, a proposito di questa normalizzazione e soprattutto della transizione energetica, qualche giorno fa c'è stata la prima riunione del tavolo del MISE, annunciato in realtà già diversi mesi fa, che deve in qualche modo individuare delle misure a sostegno di questa transizione. Secondo lei com'è andata? Il riconoscimento da parte del governo di un ruolo importante del settore e della filiera dell'automotive in Italia di fatto è stato conclamato, quindi andiamo con una relazione molto più matura, andiamo con una relazione molto più collaborativa e quindi non solo i grandi tavoli di adunate oceaniche senza costrutto così come fu per gli anni passati, ma una ulteriore step insomma, di considerazione, quindi attraverso per esempio il libro fatto in collaborazione con Danfia, con Confindustria, con le proposte di Industria 4.0 piuttosto di tutto quanto attiene all'iniezione provvedimenti tali da poter generare maggiore positività e accelerazione tecnologica del nostro comparto, credo che tutto sia su questo famoso tavolo del MISE e non solo, ma anche di un'attenzione da parte della Presidenza del Consiglio verso un settore così importante per l'economia del paese. E noi ovviamente continuiamo a seguire con attenzione questo interesse ovviamente da parte del governo nei confronti di questo settore. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Paolo Scudieri, presidente di Anfia. Grazie per essere stato con noi questa sera. Ritorneremo tra poco per parlare di auto giapponesi. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questo secondo spazio a Mazda, una casa che sta riscuotendo sempre più successo in Italia. La CX-30 in particolare, la vettura che è stata lanciata lo scorso anno, ha avuto un importante successo nel nostro paese, in arrivo anche nuovi modelli come la MX-30. Di tutto questo tra l'altro parliamo anche all'interno del sito di Strade e Motori, sempre su Radio 24 nella sezione dedicata alla nostra trasmissione. Vi ricordo che è possibile vedere anche i video relativi alle nostre prove, e c'è il video appunto di questa CX-30. Ma torniamo al nostro ospite, che è Roberto Pietrantonio, che è l'AD di Mazda Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie a voi. Allora, dicevamo, un 2019 sicuramente importante per la casa giapponese in Italia, un 2019 segnato da alcune tappe storiche, che è il lancio della CX-30, il nuovo Sky Active X, questo incrocio fra benzina e il diesel di cui ci parlerà sicuramente lei fra poco. E allora, come si è chiuso quest'anno? Allora sì, il 2019 per Mazda in Italia è stato veramente un ottimo anno. Abbiamo chiuso dal punto di vista delle vendite con circa 13.400 immatricolazioni in Italia, che vuol dire un più 23% verso l'anno precedente. E se poi facciamo un focus sulle performance che ci sono state da settembre a dicembre, ovvero quindi da quando è entrata in gamma la CX-30, beh, allora le performance diventano ancora più interessanti, perché parliamo di un più 57%. Quindi è stato un anno memorabile, e possiamo dire che nella storia ventennale, perché Mazda Italia nel 2020 compie 20 anni come National Sales Company, è stato probabilmente il miglior anno di sempre per la rete di vendita dei concessionari Mazda dal punto di vista dei fatturati, e non solo, perché anche dal punto di vista dei parametri qualitativi di business tutti gli indicatori sono nell'area del verde pieno, positivi, e in particolare è cresciuta anche la soddisfazione dei clienti, che sono sempre più raffinati ed esigenti, a cui cerchiamo di offrire un'esperienza che sia coerente con i valori di Mazda. Certo. Quindi CX-30 ha giocato sicuramente un ruolo importante in questo anno straordinario. E non a caso è un po' la protagonista anche di questa nostra intervista. Prima però di approfondire un po' di dati tecnici su quest'auto, vorrei anche parlare di Sky Active X, che è questo motore, un incrocio fra un motore benzina con un'accensione che però ricorda quello diesel. Ecco, quali sono le caratteristiche tecniche di questo motore e qual è stata la risposta del mercato? Sì, è stato un altro dei fili conduttori di quest'anno, del 2019, è stata l'introduzione della tecnologia Sky Active X, prima su Mazda 3, che è stato il primo modello della nuova generazione lanciato all'inizio dell'anno. Ebbene, Sky Active X, dopo 100 anni che tutti un po' provavano a mettere in piedi questa tecnologia, beh, Mazda ci è riuscita ed è stata la prima, in questo momento è l'unica, a detenere questa tecnologia. Sostanzialmente si tratta di un motore di produzione di serie che è alimentato a benzina, però funziona per accensione a compressione. In sostanza mette un po' assieme il meglio dei due mondi, ovvero nel caso specifico dei motori di cui sono dotate Mazda 3 e CX-30 parliamo di una motorizzazione da 180 cavalli, che però ha dei consumi e delle emissioni estremamente ridotte, assolutamente comparabili a motori di cilindrata inferiore e di potenza, certo, inferiore. Allora, proiettiamoci su questo nuovo anno, il 2020, quali sono le aspettative su quest'anno e soprattutto quali sono i modelli che vedremo quest'anno? Sì, allora, in un anno che, come dicevamo prima, è complicato per il mondo dell'automotive, no? C'è un momento storico in cui gli investimenti molto ingenti per far fronte al cambio epocale che il mondo della mobilità richiede, in cui gli osservatori parlano di desertificazione dei profitti. Beh, il nostro obiettivo in Italia è quello di consolidare la performance già fantastica del 2019, puntando a crescere ulteriormente in qualità del business. Parliamo a 360 gradi, inclusa poi l'efficienza di tutta l'organizzazione di Mazda in Italia. E dal punto di vista commerciale abbiamo un anno particolarmente ricco, dopo un 2019 ricchissimo, quindi proprio in questi giorni abbiamo lanciato la Mazda 2, la piccola ammiraglia, una vettura di segmento B ma con dotazioni e cifra tecnologica assolutamente da segmento superiore, che oggi in Italia si presenta anche con una motorizzazione ibrida. E questo sappiamo che è un fattore oggi molto rilevante in Italia, che vede Mazda con tre modelli, quindi la Mazda 2, la Mazda 3 e il CX-30 con dotati di questa tipologia di motorizzazione con elettrificazione, e sapete che in questo momento con il disorientamento dei consumatori, certo, anche grazie, certo, alle decisioni delle amministrazioni locali che non sempre sembrano essere basate su fondamenti e fondamenta robuste. Ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane, ovviamente. Ne sono sicuro, e quindi diciamo c'è un'attenzione forte anche su questa tipologia di alimentazione. Quindi dicevamo Mazda 2 oggi anche ibrida, e le altre frecce del nostro arco sono sicuramente la Mazda 3, che è stata lanciata poco meno di un anno fa e che ci sta dando molte soddisfazioni su un segmento che non gode di ottima salute, ma che nel quale Mazda 3 sta avendo un buon ruolo. Sicuramente CX-30, di cui parlavamo prima, il crossover che è stato lanciato a settembre e che senz'altro diventerà il nostro best seller, arricchendo l'offerta Mazda anche sulle carrozzerie SUV e crossover. Quindi abbiamo il City Crossover CX-3, che nel 2020 prende una pausa per diciamo una rigenerazione in produzione e sarà disponibile nella seconda parte dell'anno, e il SUV, il CX-5, che invece è destinato a un'utenza che percorre molti più chilometri, che tanti clienti prestigiosi e raffinati ha portato in Mazda. Certo. Un'altra freccia da non dimenticare è ovviamente la MX-5, la Spider più venduta al mondo, l'auto che è quella migliore per diffondere il credo di Mazda sul piacere di guida, e ne vendiamo insomma, continuiamo a venderne tante in un segmento dove praticamente siamo quasi beatamente da soli. E infine, come accennavamo prima, lanceremo nel corso del 2020, parliamo dell'estate, MX-30, quindi la prima vettura elettrica di Mazda. E in questa fase siamo nella fase di prenotazione, quindi già stiamo ricevendo delle richieste di prenotazione da parte di clienti, e poi diventeranno contratti nella seconda parte dell'anno. Ecco, approfondiamo proprio questo tema, quello delle full electric. Quali sono le caratteristiche di questa MX-30? Ormai tutte le case costruttrici si sono lanciate in questa sfida del totale elettrico, una sfida devo dire anche particolarmente impegnativa, perché stiamo parlando di auto che non sono destinate alla la città e che quindi hanno bisogno di infrastruttura di ricarica lungo le autostrade, ad esempio, o lungo strade extraurbane, che ad oggi, almeno in Italia, sono praticamente assenti. Sì, diciamo che questo avviene in un momento di fortissima spinta all'elettrificazione, elettrificazione che Mazda ritiene essere una delle soluzioni possibili per la risoluzione di problematiche complesse, quali sono quelle dell'innalzamento della temperatura globale e della qualità dell'aria che respiriamo. Quindi Mazda sta proponendosi come interlocutore e con una filosofia e un approccio interessante su questi temi, perché ritiene che a temi complessi si debba rispondere con soluzioni articolate, quindi propone un ventaglio di soluzioni tecnologiche, quelle giuste al momento giusto e da utilizzarsi nel luogo giusto, anche considerando la maturità della tecnologia a disposizione e evidentemente tutti i fattori esogeni, quindi come dicevamo la disponibilità di infrastrutture e, se vogliamo, per quello che riguarda l'elettrico, anche un po' la cultura del consumatore, che ovviamente, certo, cambia nell'approccio verso l'elettrico. Quindi MX-30 possiamo dire che è proprio l'incarnazione dei valori Mazda che diventano auto elettrica. Visto che i consumatori sono in questo momento disorientati e sono anche poco acculturati sul tema dell'elettrico, perché è una tecnologia nuova, noi ad esempio a febbraio, dal 17 al 22, stiamo organizzando 64 eventi in tutta Italia presso le nostre concessionarie, dove giornalisti, ingegneri, anche personaggi del mondo accademico parleranno del mondo dell'elettrico, cercando di orientare i consumatori. Sarà un'occasione quella anche per raccontare la filosofia progettuale della MX-30, che appunto sarà un'auto elettrica, certo, con i valori di Mazda di serie, e quindi tutta una serie di soluzioni uniche, e a partire proprio dalla scelta della dimensione della batteria e dunque dell'autonomia, che è stata pensata per diminuire l'impatto ambientale dal punto di vista delle emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita di produzione della vettura, partendo da questa scelta, poi tutta un'altra serie di scelte come materiali riciclati e riciclabili, un design human modern, l'apertura delle portiere ad armadio, quindi delle freestyle che hanno contraddistinto dei modelli Mazda nel passato, e mantenendo il marchio di fabbrica Mazda, quindi il piacere di guida, la connessione tra auto e guidatore anche esclusivamente su una vettura elettrica Mazda. Certo, e noi ovviamente seguiremo anche l'evoluzione, il lancio di questa vettura. Assolutamente lodevole invece l'iniziativa di formare i consumatori, perché mai come in questo momento probabilmente gli automobilisti, i consumatori, non solo italiani ma credo europei, sono davvero disorientati sulla scelta da fare per quanto riguarda l'auto. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Vi ricordo ancora sul sito di Radio 24, nella sezione Strade e Motori dedicata alla nostra trasmissione, il video della nuova CX-30, nuova, lanciata lo scorso anno, ma diciamo sicuramente di questi ultimi mesi. Termina qui allora questo appuntamento. Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.